Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero e iniziamo facendo un salto nel passato. Avete letto tutti, immagino, la notizia di questa famiglia, i Macmillan, si chiamano così, canadesi, che hanno pensato di tornare indietro nel tempo. Tutto è successo perché il signor Blair ha chiesto al figlio di venire a giocare in giardino, come tutti i bambini dovrebbero fare, o come magari noi abbiamo fatto, e invece il figlio ha avuto la risposta, ha detto no, preferisco il tablet, e quindi se così è rimasto seduto sul divano, ha acceso il suo tablet, ha giocato col suo gioco preferito ed è rimasto lì. E Blair, il papà, l'ha guardato e ha pensato: le cose non vanno come dovrebbero andare, un bambino di quell'età deve giocare all'aperto. E così ha chiesto alla moglie Morgan di fare un esperimento, provare a vivere per un anno intero come il primo giorno del loro incontro. Era il 1986, anno in cui è andato alla luce anche il figlio, e la moglie, prima un po' sbigottita, poi invece aderente all'idea. E così questa famiglia per un anno si è proposta di vivere nel 1986. Non c'è internet, non ci sono i telefonini, tantomeno i tablet. E allora come vivranno in quest'anno? Quale fatica ci sarà? Anche perché i ragazzi poi andranno a scuola e la tecnologia la vedranno, però a casa non la possono utilizzare. Allora da questa storia ho pensato di costruire una puntata intitolata Ieri, Oggi e Domani. Come si viveva prima dell'epoca di internet? Che cosa è cambiato e come alla fine cambierà? Prenderemo in esame alcuni momenti della nostra vita e alcuni ambiti, ne chiacchiereremo con gli ospiti in studio che tra poco vi presenterò, e poi anche con quelli al telefono. Ma con voi che cosa vi manca dell'era pre-internet, chiamiamola così? Cosa abbiamo perso, se abbiamo perso qualcosa per strada, e cosa ci abbiamo guadagnato? I vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla nostra pagina di Facebook Il Riposo del Guerriero, per capire cosa ci siamo lasciati indietro. Magari niente, magari tutto. E per iniziare, beh, ho scelto una canzone del 1986. Avete riconosciuto sicuramente Freddie Mercury, Queen, di Who Wants to Live Forever, poi usato anche per il film Highlander. L'album era Candle Magic e uscì proprio oggi, ma nel 1986, il 15 settembre, per cui è un po' un ricordo di quell'anno scelto anche da questa famiglia canadese. Elisabetta De Biasio, ciao, buona domenica. Buongiorno. E Gian Piero Canneddu, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, ho scritto insieme un libro, si intitola Correva l'anno della girella. Perché avete scelto la girella? Ma è stata un'illuminazione così fulminea, nel senso che prima è nato il titolo e poi è nato il libro. Cioè, in realtà io stavo traducendo una pergamena antica. Sì. Perché Elisabetta è filologa medievale, si diverte a fare Lara Croft. Esatto. E mi è venuta in mente l'idea di scrivere un libro su quel decennio a cui io sono molto affezionata. Ci sono entrata a 5 anni, ci sono uscita a 15, e per me io rimango una nostalgica di quel decennio. Ne ho parlato con Giampiero ed è nato questo libro di getto, perché ci siamo trovati entrambi appassionati di flashback del passato, di quel decennio nello specifico. Se non fosse stata la girella, Giampiero, cosa avrebbe dovuto essere? È pieno di icone quel decennio, soprattutto per noi nostalgici veri, che abbiamo passato ore e ore davanti alla TV a guardare cartoni animati, ci siamo nutriti di grassi idrogenati oltre a quelli della girella. quelli di un sacco di merendine, che ne so, le Camille, un pochino meno sexy forse perché non c'era il cioccolato, c'era quella prima parvenza di biologico che era l'aroma di carota con quel colore arancione un po' strano, o i tegolini, o le pubblicità, o i tormentoni, i comici, le trasmissioni TV, è pieno di icone. Diciamo che se salissimo ora su una DeLorean e programmassimo l'anno 1986 troveremmo un sacco di ricordi, non so se quella famiglia canadese riuscirà a riportarli tutti alla luce, ma... Non lo so, intanto hanno deciso di vivere come anche nel look come in quegli anni, si è fatto crescere i baffoni, i capelli lunghi, gli essere cotonati tutti, ne parliamo sicuramente, hai citato la DeLorean e tra poco ne parleremo sicuramente dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Tornerei anche un po' più indietro, magari negli anni 70, perché abbiamo perso tutto e guadagnato nulla. Non siamo d'accordo? Oggi vediamo che cosa abbiamo guadagnato e se abbiamo perso qualcosa, che cosa ci siamo lasciati davvero per strada. Roberto scrive: abbiamo perso la privacy. E invece Stefano dice: mi manca il rito delle cartoline del mare, il conto di quante prendere, la scelta, il problema di cosa scrivere seduti al tavolino del bar. È vero, perché si pensava. È vero, una volta era un rito come tanti altri che poi se ne sono andati nel tempo perduti. Il primo che viene in mente proprio in base all'esperienza di questa famiglia canadese è il telefono. Perché una volta si andava con il gettone, se bisognava avvisare qualcuno di un ritardo e non era sempre facilissimo Forse in questo trovare. senso Roberto dice abbiamo perso un po' di privacy, no? Perché alla fine della fiera in qualche modo sei sempre raggiungibile. Devo anche dire che invece la tecnologia cosa ci ha portato? La possibilità di scattare una fotografia che ci piace, trasformarla in una vera e propria cartolina e poi farla pervenire per posta. Insomma, questo è possibile. Quindi Assolutamente. non so se abbiamo perso, forse ci abbiamo guadagnato. Non il tabaccaio che magari vende meno cartoline, però Anche, possiamo parlare male delle immagini scelte per le cartoline? Diciamo che 9 immagini su 10 erano discutibili, ma tu dici anche quelle in generale? quelle in generale degli anni 80, Sì. con queste foto tendenzialmente di 10 anni prima in cui Beh, come era appena solito uscita, c'era lei in perizoma e poi sullo sfondo il castello, una oppure la cosa del veduta della genere. città, dove era appena uscita la Fiat Ritmo, già discutibile di sua come linea, ma c'erano ancora le Fiat 127 in queste vedute di città, quindi. Adesso mi devi spiegare, Giampiero, perché continui a nominare automobili? Non lo so, forse la DeLorean è una delle icone, la DeLorean, la Fiat Ritmo è un'icona, la Fiat Uno è un'icona. Vi ricordate le pubblicità? Ti viene in mente, e ho scoperto che non era soltanto italiana, la vecchia pubblicità, se non sbaglio, di una Citroën che saltava per aria esplodendo e c'era un messicano meraviglioso che diceva: Ehi, gringo, la macchina, va, va, vuma! C'è un motivo però, secondo me, perché continuano a venirti in mente automobili. Nulari è basso di statura, nulari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Silvia Nicolis, ciao, buona domenica. Buongiorno a tutti e buona domenica. Ben ritrovata, direttrice del museo Nicolis, voluto da suo papà Luciano e straordinariamente ben fatto. Devo dire che è una delle eccellenze italiane. Per chi non l'avesse visto, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto e ancora tanti complimenti per quello che fate, Silvia. Grazie, grazie. Allora, la raccolta del museo Nicolis, che custodisce il tempo, come dice lui, le cose le custodisce ma non sono di proprietà, tra virgolette. Ed è una filosofia giusta. Diciamo, per la maggior parte una rappresentazione di automobili, perché l'automobile racconta l'evoluzione della nostra storia, Silvia. Assolutamente sì, l'automobile racchiude proprio anche uno spaccato di società, oltretutto. Invenzioni proprio come l'automobile stessa voluta da Carl Benz hanno proprio trasformato la vita dell'uomo e gli ha consentito di viaggiare in modo indipendente, quindi figuriamoci che evoluzione c'è stata anche proprio a livello individuale dell'uomo, ecco. Oltretutto le automobili racchiudono veramente una marea di applicazioni tecniche che ci portiamo da un secolo oramai, ecco, di storia. Infatti, Quindi scusa, io visitando il museo, intanto ho scoperto che il motore a scoppio è stato inventato da un veronese. Voi siete vicino a Verona, siete a Villafranca. sì. Poi Benz è ripreso da Benz, anzi dalla moglie. Insomma, questa è una storia divertente che un giorno magari vi racconteremo, potete andarvi a leggere. Ma la cosa che mi ha incuriosito è che molta della tecnologia che oggi abbiamo sulle automobili in realtà è stata già pensata molto tempo prima. Assolutamente sì, noi infatti abbiamo vetture molto significative, a partire per esempio dalla italiana Lancia Lambda, che è stata la prima vettura in serie con un telaio a struttura portante, ed è stato appunto Vincenzo Lancia a rivoluzionare il concetto dell'autotelaio e della carrozzeria per tutto il mondo. Ma poi abbiamo anche macchine molto significative come la vettura elettrica, per esempio, che noi crediamo essere un'applicazione contemporanea. In realtà le tracce appunto dell'elettricità sulla macchina risalgono addirittura alla fine dell'Ottocento, quindi sono tecnologie e invenzioni che ancora oggi, voglio dire, sfruttiamo come innovazioni. Poi vogliamo parlare per esempio della catena di montaggio di Henry Ford, che rivoluziona invece il sistema della produzione in massa dell'automobile, oppure della globalizzazione, perché tante automobili venivano, diciamo, spedite alle varie parti in giro per l'Europa, in giro per il mondo, e poi riassemblate in casa, e quindi ogni automobile esprimeva anche innovazioni che provenivano un po' da tutto il mondo. Ecco, ecco, il pagamento rateale, quindi, l'abbiamo inventato noi con la Fiat? Ma allora l'istituto Sava, che è quello per la vendita appunto rateale, è stato applicato con il lancio della Fiat 509, per cui di fatto anche quella potrebbe essere considerata una novità per rendere accessibile l'automobile alla popolazione. Ecco Silvia, che cosa ci siamo persi, se ci siamo persi qualcosa? Sì, io dico sempre, anzitutto dalla storia dobbiamo attingere, leggere e studiare, perché l'ingegno dell'uomo è sempre stato al centro. La cosa forse che abbiamo perso, ma che stiamo rivalutando fortunatamente, è per esempio il fattore umano, l'artigianato, quindi la cura dei dettagli, il manufatto, i famosi battilamiere. Se ci ricordiamo, le più grandi automobili e le più grandi carrozzerie sono state il risultato sicuramente del lavoro dell'uomo, dell'artigianato e della nostra manualità. Poi ancora magari lo spirito dei piloti eroici, no? Ci ricordiamo appunto Nuvolari piuttosto che Ascari o Luigi Villoresi, che correvano proprio con uno spirito di domare questo mostro meccanico, e quindi c'era tutta questa passione, tutta questa aurea che si portava dietro. Poi altri temi sicuramente come la cultura del viaggio, quindi gli accessori, i bauli, l'abbigliamento di classe, ecco un'altra cosa, quindi la sartoria piuttosto che i fiori freschi in macchina, ma anche, io dico sempre al museo, la differenza tra cultura del lusso e lusso di consumo. Una volta la cultura del lusso, il lusso era proprio una cosa che doveva essere un benessere personale, quindi era più la cura della ricerca di qualcosa che ci dava più agio, ecco, più benessere anche a livello intellettuale, se vogliamo. Quindi queste sono forse le cose da ripristinare, secondo me. Beh, cerchiamo di farlo. Allora, intanto vi invito ad andare a vedere il Museo Nicolis, anche solo per vedere l'Isotta Fraschini, che ha richiesto più di 10 anni per essere rimessa a posto, ma è uno spettacolo, perché tutte le cose che hai detto tu in quell'auto si vedono perfettamente. Esatto, sì. Grazie Silvia Nicolis, grazie, buona domenica, ciao. Vediamo dove andremo invece. Marco Pascali, ciao. Buongiorno a tutti. Marco è reduce dal suono di Francoforte, dove insomma il passato ce n'è poco e c'è molto futuro invece. Le nostre auto come saranno? Ma le nostre auto saranno molto simili ancora per tanti anni a quelle che vediamo tutti i giorni, che guidiamo. Diciamo che quello che l'evoluzione ultima dell'automobile sarà il fatto che saranno completamente automatizzate, e quindi ci saranno tante possibilità di utilizzarle, entrare dentro, dire dove si dovrà andare, l'auto ci porterà, nel frattempo noi potremo utilizzare giornali, chiacchierare con gli amici, insomma sarà una mobilità molto Guarda, diversa. Guarda, c'è una cosa molto curiosa, Marco, una delle auto che ho visto al museo è un'auto elettrica. L'auto elettrica era guidata dalle donne, perché erano auto che non avevano bisogno dello chauffeur. Lo chauffeur, oltre a essere l'autista, era un meccanico soprattutto, perché le auto con motore a scoppio avevano bisogno di molta manutenzione, quindi ci voleva molta conoscenza. E c'è un'auto molto curiosa, fatta con un divanetto dietro, due posti, e davanti due sedili. La cosa curiosa è che i sedili davanti si voltano per guardare in faccia le persone, in modo che le donne potevano guidare stando dietro, però sedute, mentre chiacchieravano, che è pericolosissimo ovviamente, però insomma arriveremo un po' ancora a quello. L'auto guiderà da sola, però leggeremo il giornale mentre. Allora io chiedo ai miei ospiti Giampiero e Elisabetta, Questo fatto della tecnologia, allora Giampiero dovete sapere che è un tecnologico, Elisabetta un po' meno, ma Giampiero sì, quindi comunque è una persona proiettata, ecco, verso quello che è internet e la tecnologia in generale ci ha portato. Il fatto che un'auto decida, è vero che decidiamo noi, ma a metà, no? Perché è tutto già scritto, anche quando usi un, l'abbiamo visto anche prima, un tablet, è tutto già pensato da altri e noi, cioè, dobbiamo stare in quello che gli altri hanno pensato, dobbiamo seguire quelle regole. Credo che non ce la faremo mai, anche se un'auto decide per noi il percorso. A parte che so, per chi sarò un tecnologo, ma non ho ancora un navigatore satellitare in auto. E so per certo, l'avrai per forza. Prima o poi ce l'avrò. So per certo che chi lo usa ogni tanto finisce qualche, dentro qualche fosso, dentro qualche stradina sterrata. Ma queste sono fandone. Leggende metropolitane. Sono leggende metropolitane. È vero, se le mappe sono vecchie, basta aggiornarle. Però io credo ben poco alle persone, anche perché lo vedi un fiume, insomma, anche se ti dovesse far andare verso un fiume, dice vabbè, non vado oltre. Ma no? Più nel dettaglio rivendico la decisione di scegliere la strada panoramica lungomare anziché l'autostrada, se ho voglia di godermi un bel panorama. Nessuna auto potrà decidere questo per me. Ma adesso i navigatori fanno anche quello, scegli anche quello. E come la immagini l'auto del futuro tu, Elisabetta? Che mi porti, ecco, esatto. Quella lì, va bene, quindi Marco ci siamo, quindi c'è un mercato. E, a parte tutta questa tecnologia, internet quanto farà parte delle auto che guideremo, Marco? Ma farà parte sempre più di internet, perché appunto tutti i servizi accessori all'auto, dal trovare il parcheggio, oggi è un incubo veramente trovare i parcheggi, saranno dei parcheggi sempre più automatizzati e indicheranno il numero di posti liberi, quindi interfacciandosi con l'automobile, questi sistemi permetteranno di trovare dei parcheggi nel minor tempo possibile. Ecco, immagino. Programmare degli itinerari con delle soste nei benzinai, oggi, domani nelle stazioni di ricarica, magari sapendo che tra le tue preferenze c'è quello di prendere anche un caffè. Ecco, sì, esatto, quindi tu puoi impostarti diciamo così, la gita, tra virgolette, come vuoi, o comunque il tuo viaggio. E ovviamente molta attenzione all'ecologia, ovvio. Grande attenzione all'ecologia, infatti le novità in realtà più interessanti del salone, a mio avviso, sono state quelle che riguardavano proprio le cosiddette range extender. Cosa sono? Sono delle auto elettriche che hanno dei motori all'interno che riescono a produrre energia, che ricaricano le batterie, quindi l'autonomia limitata delle auto elettriche non è più un problema oggi. Questo infatti sarebbe molto molto interessante. Io che ho una bici elettrica, per esempio, per la data assistita, tutti mi dicono: ma pedalando si ricarica? No, questo è. E invece è quello che dovrà accadere, e davvero potrebbe essere interessante, perché il problema vero delle auto elettriche è l'autonomia oggi, per cui forse... Esatto, assolutamente. Questo dell'auto ibrida in realtà è una tecnologia che è da anni... È un passaggio e le auto completamente elettriche con questo motorino, diciamo, che ricarica le batterie permettendo di aggiungere autonomia, è sicuramente la tecnologia che vedremo maggiormente da quei prossimi 10 anni. Ecco, se ci pensiamo, siamo tornati indietro alla fine dell'Ottocento, ritorniamo lì, meno male. E quindi dal passato bisogna sempre imparare. Grazie Marco Pascali, ciao, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Ciao, intanto vi invito appunto a raccontarci quello che secondo voi abbiamo guadagnato, ma anche quello che abbiamo perso dall'epoca pre-internet a oggi. I vostri messaggi al 349-238-6666, la pagina Facebook, la pubblicità, e torniamo a parlare. Il riposo del guerriero. Intanto rispondo, il Museo Nicolis è a Villafranca Veronese, di Verona, e quindi dalle parti appunto della città scaligera. Pensavo anche che internet ci ha regalato un sacco di tempo extra che però utilizziamo per stare su internet, e non è male. Se la situazione economica non cambia, le nostre auto saranno sempre più simili a una bicicletta. Le piace la Costituzione italiana? Ma rimane sempre come prima. Anche con i cambiamenti? Sì, sono sempre gli stessi. Sì, ma non, a me queste cose non mi interessa, io leggo solo roba di sport e basta. Dovrebbero essere più onesti. A diminuire molto i parlamentari. L'immunità parlamentare. Ci dovrebbe essere immunità per tutti quanti. L'altro, per esempio, sono favorevole ad un solo ramo del Parlamento. Che ne so, io guardo la politica, no, mi piace, sta così, la democrazia e basta. Cioè era meglio che sia ancora più meglio questa costruzione, che è ancora modificata, però... Per me queste votazioni, specialmente l'ultima che abbiamo fatto, non sono valse proprio a niente. Lei non pensa che cambierà qualcosa? Proprio, sì, cambia qualcosa. In peggio però. Riduzione dei parlamentari, cambierà in peggio, le cose non è che sono molto cambiate, almeno l'opinione pubblica verso la politica. Dove l'ho già sentite queste frasi? Quindi in tutti questi a 30 anni sono passati, ma... Sì, poi si dice degli anni 80 come li si considera un decennio disimpegnato, poco politicizzato. Io non sono del tutto d'accordo. Avevamo grandi temi, forse eravamo meno ripiegati su noi stessi con questa lotta alla casta, ai politici tra virgolette mangioni, però ci occupavamo di nucleare, di pace nel mondo, il terrore del day after, film che poi non hanno più ritrasmesso, non so perché, mi piacerebbe rivederlo e non so dove trovarlo, sulla catastrofe nucleare imminente, che poi per fortuna non c'è stata, ma noi eravamo molto molto presenti su questi temi, l'apartheid, la lotta all'AIDS, cioè, me ne vengono in mente parecchi che dimostrano che non eravamo proprio così distratti. Se forse più gli anni 90 sono stati quelli. Alla fine sì. Senti, visto che tu sei un giornalista, Giampiero, la tecnologia che cosa ti ha portato invece? Cioè, come è cambiato il mestiere da prima a dopo la rete? Meravigliosamente bene, direi, per certe cose. Immagino una ricerca d'archivio che prima ti costringeva a chiedere aiuto a polverose biblioteche, adesso risolvi con una chiave di ricerca su un sito web ben organizzato. Immagino la facilità di rintracciare un personaggio che prima doveva essere nelle immediate vicinanze di un telefono fisso, adesso se ha un cellulare in tasca, e ce l'ha a volte più di uno, e se ha voglia di risponderti, tendenzialmente lo puoi trovare in men che non si dica. Immagina le vecchie tipografie con la composizione a piombo, o ancora in tempi un po' più recenti con le strisce di cera da sistemare sulle pagine colonna per colonna, e adesso video impaginazione, tutto molto molto più rapido. Ecco, tutto più rapido, ma si è perso qualcosa, tu che sei una filologa, per cui forse ancora hai libroni, hai dizionari, sì, no? Sì, su alcuni argomenti assolutamente lì la tecnologia non ha aiutato, però a me viene in mente la sicurezza. Lui parlava del nucleare, sì. Proprio nell'aprile dell'86 c'era stata l'episodio di Chernobyl che ha fatto un po' tremare il mondo, però anche noi nel nostro piccolo non stavamo messi meglio a sicurezza, ad esempio si viaggiava in macchina senza cinture o senza seggiolini speciali per i bambini o senza airbag, e io mi ricordo pomeriggi a suon di ginocchia sbucciate piuttosto di capitomboli, c'era molto meno attenzione anche nei confronti dei ragazzini, insomma si era un po' più... Non ce n'è troppa oggi? Ecco, esatto, secondo me un'equa via di mezzo sarebbe... Perché le ginocchia sbucciate fanno parte crescere assolutamente molto di più, sì, ecco. Sì. Quindi va bene, ma non deve essere poi esagerato. Mi viene anche in mente, adesso ragionavo, abbiamo parlato dei navigatori satellitari, è anche vero che una mappa però bisogna saperla leggere, invece poi succede che non si sa più come si legge una mappa e quindi diventa difficile orientarsi senza poi uno strumento digitale, anche se poi anche i telefonini ormai fanno da bussola, per cui insomma oppure in qualche modo... Oppure i seri problemi di ortografia, dall'ortografia da SMS, dove ma quella è una cosa che discuteremo più tardi con Francesca Dragotto, okay. Sicuramente. Massimiliano Bucchi, buona domenica. Buona domenica. Professore di Scienza, Tecnologia e Società all'Università di Trento. Allora, Massimiliano, che cosa ci siamo portati dietro dall'era pre-internet e dove andremo? E secondo te, lo dico da professore di Scienza, ci siamo persi qualcosa per strada? Punto di domanda. Ma a me sembra interessante guardare, per esempio, in un settore in cui tutti abbiamo esperienza quotidiana come quello dell'ascolto di musica, come negli anni 80 si siano piantati i semi di quella che alcuni chiamano oggi la crisi completa della musica, della discografia, ma sicuramente diciamo, un cambiamento profondo, oserei dire antropologico, nel nostro rapporto con la musica, soprattutto con la musica pop. Per esempio il Walkman, che qualcuno di noi ricorda nostalgicamente, un'innovazione del 1979, poi arrivata in Europa nel 1980, ha introdotto due cose che poi si sono elevate all'ennesima potenza con gli iPod, gli MP3, e che sono in primo luogo la possibilità di potersi fare la propria musica, la propria compilation, cioè smontare, spezzettare l'album che un artista aveva pensato, no? E poterne fare un'altra. Un proprio collage, sì. Un proprio collage. E la seconda, se qualcuno si ricorda, aveva la possibilità di connettere due cuffie, quindi di ascoltare con ad esempio col fidanzato, sì, con la fidanzata, la stessa musica, che è alla base della condivisione che poi noi abbiamo visto nell'era del computer all'ennesima potenza. Ecco, quindi... io sorrido un po', Massimiano, perché le prime chat, quando ancora il web non esisteva, potevano funzionare solo se la persona che aveva, tra virgolette, il server a casa, che era un computer, aveva due linee telefoniche, altrimenti non era possibile, certo. Quindi un po' come la doppia cuffia. E io leggo, tra l'altro, i vostri messaggi sono tanti, ne arriva uno da Guardia Grele, che è una località, tra l'altro, bellissima in Abruzzo. Manca la ricerca sulla rubrica dei numeri scritti cancellati e il telefono con la corona. Vabbè, a parte il telefono decadico, ma il fatto di non ricordare più i numeri a memoria ha in qualche modo inficiato la nostra capacità di ricordare. C'è questo, io ricordo questo straordinario racconto di fantascienza, 9 volte 7 di Isaac Asimov, in cui con i calcolatori in un futuro, insomma, nessuno è più capace di fare i calcoli a memoria, e poi un grande blackout energetico permette a uno dei due pianeti che contendevano in quel momento di prevalere sull'altro, perché ha ancora una persona che sa fare i calcoli a memoria. Questo mi viene in mente pensando, però sicuramente chi di noi ha vissuto nell'era pre-telefonino sa che si ricordavano a memoria numerosi numeri di telefono, cosa che oggi più non avviene. Ci pensa il cloud adesso, no? Perché tutto è memorizzato lì, questa grande nuvola che ormai contiene i segreti di chiunque. Massimiano, l'ultima domanda che ti faccio è questa: e se ci siamo persi qualcosa, tu sei partito da un esempio di quello che ci siamo portati dietro e abbiamo cambiato, migliorato, e invece qualcosa ce lo siamo persi nella tecnologia, nella scienza, oppure no, è solo una crescita? No, ci siamo persi sicuramente, appunto stavo parlando del rapporto con la musica, sì. La musica come prodotto anche commerciale, però la musica anche come prodotto artistico. Ecco, non no? È più un prodotto artistico, non è un prodotto consumato. Perché basta pensare ai grandi album dei Beatles o dei Pink Floyd, l'aspetto tattile, non lo dico in senso nostalgico, ma l'aspetto tattile, l'aspetto, la copertina, quindi anche una certa dimensione, l'aspetto fisico facevano parte del rapporto che si stabiliva con questo contenuto. E oggi appunto abbiamo completamente smaterializzato e quindi dato un significato diverso, non dico che sia peggiore, ma sicuramente diverso. E quindi questo secondo me è un punto molto importante, cioè tutta la crisi della discografia e la scarsa disponibilità, mettiamola così, degli utenti oggi a pagare per la musica, non è una conseguenza del fatto che si può trovare la musica gratuitamente, ma è una conseguenza proprio di questo rapporto che è cambiato, cioè si dà un valore diverso, se vogliamo, minore, più indifferente, cioè la musica diventa un po' come l'acqua del rubinetto, che quando ne ho voglia, no, apro e la sento un po' in streaming da qualche parte, e non c'è più questo rapporto di senso, oserei dire, che si stabiliva. Claudio, Massimiano, io sono fondamentalmente d'accordo con te molto, perché il problema della proprietà intellettuale in generale, no? Questo ed è un ampio capitolo che andrebbe ben discusso, ma l'hai anche descritto molto molto bene. Grazie Massimiano Bucchi, buona domenica. Ciao. Vi ricordo il libro che ha appena pubblicato, Il pollo di Newton, si intitola La scienza in cucina, edito da Guanda. Ecco, Samantha Fox non usciva dal rubinetto di casa, ma era sicuramente appesa da qualche parte nella camera di Giampiero Canneddu, credo. Tendeva a essere un po' nascosta perché c'erano varie versioni dei poster di Samantha Fox. Sì, tu quale avevi? Con più o meno bikini, diciamo, sì. Così. C'era quella ufficiale con più bikini e quella ufficiosa con meno bikini, che stava ovviamente nel retro dell'armadio da consultare soltanto nei momenti di quieta solitudine, diciamo così. Samantha Fox è un mito assoluto di quegli anni. Claudio Ferrante, buona domenica. Buongiorno. Presidente di Artist First, una società di distribuzione discografica che distribuisce in modo diverso. Adesso ne parliamo. Volevo chiedere però a Elisabetta se Samantha Fox era l'idolo femminile canterino di Giampiero. Il tuo qual era? Beh, come tutti, volevo sposare Simon Le Bon. Anche tu, va bene. Tra Duragnani e Spandau Ballet Addicted, io stavo per i primi. C'era anche un film. Allora, Claudio, esatto. Hai sentito prima l'intervento di Massimiano, la musica è cambiata in tutti i sensi. Allora, tu arrivi da un'esperienza di direttore di Carosello Records, che è un'etichetta importante e storica, Claudio. Un'etichetta importante storica che ha scoperto nel corso degli anni artisti da Vasco Rossi a Giorgio Gaber, a Mina, eccetera, eccetera. Infatti io me la ricordo molto bene. Però a un certo punto anche tu hai detto: qui le cose devono cambiare. Come sono cambiate, Claudio? Beh, in realtà quello che Buchi diceva prima, nel senso che con l'avvento della tecnologia si è persa un po' quel gusto di ascoltare un disco, la fruizione della musica è diventata sempre più veloce, eccetera, eccetera. Sì, il concept album, per esempio, non ha più senso d'essere, no? Perché se non lo ascolti tutto intero, lo perdi. Ecco. Sì, si è creata una cultura di singoli. Il concept album che aveva inventato Alan Parsons, ricordiamolo, che era un ingegnere del suono prima di diventare poi un artista, è completamente sparito. Questo perché nel corso degli anni 80 e 90 l'industria discografica globale ha creato una cultura più di singoli. In un album c'erano soltanto tre canzoni belle sostanzialmente che piacevano, e il resto erano riempitivi. Per cui l'ascoltatore, l'utente, l'acquirente ha un po' pensato di andare poi a scovarsi le canzoni che dell'artista erano più rappresentative, senza acquistare un album. iTunes oggi o Spotify ti danno la possibilità di scaricare una canzone e basta, oppure un album, non sei costretto ad acquistarlo. Quindi si è creata un po' una cultura attenta, molto più istantanea alle canzoni, al successo del momento, eccetera, e naturalmente questo è stato una delle cause fondamentali della crisi dell'industria discografica. Ecco, come Massimiano diceva prima. Un secondo, sono aggiornamenti sul traffico, continuiamo a parlarne. I vostri messaggi 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Nel frattempo un ascoltatore ci ha segnalato su eBay la possibilità di acquistare, forse per te Giampiero, le compilation, non le compilation ma i singoli, anche in edizioni speciali, picture disc di Samantha Fox. Allora, i picture disc, scusami Claudio, sono ormai persi completamente, erano dei dischi in vinile che avevano però una fotografia, possono essere neri, avevano una foto al loro interno e quindi girava la foto sul piatto. Immaginate la foto di Samantha Fox, amici ascoltatori. Che girava, ecco. Però sarai scontento perché c'è solo la faccia sul picture disc. Ovviamente non hanno messo altro perché il 45 giri è piccolo, quindi io non metto, ci stava. No, non solo la faccia. No, in questo c'è di più. Vabbè, ok. Cioè, oltre alla faccia c'è anche altro. Allora Claudio, scusami, certo i picture disc li siamo completamente dimenticati, oggi con MP3 è già tanto se vedi un'immagine quando li ascolti con un lettore. Esattamente, questo da una parte ci consente di portare con noi un'intera library musicale mondiale, sì, della storia della musica mondiale, in un telefonino. Prima dovevi entrare in casa, avere magari acquistato 10.000 LP, sederti però, avere la magia di poterla ascoltare, di poter... c'era un'altra magia. Ebbene, ma questo lo hanno percepito anche gli artisti, che sostanzialmente hanno visto come appunto l'importanza dell'album, cioè di un lavoro fatto su 12 canzoni, su 15 canzoni, la storia di un momento fotografato in 15 canzoni, l'artista in realtà cosa fa? L'album è figlio di un periodo dell'artista, non esiste soltanto una canzone. E in questo devo dire che se ne sono accorti, quindi questa è sostanzialmente l'epoca della disintermediazione. L'artista che decide di staccarsi completamente dal sistema, cioè dal sistema che ha creato una cultura di singoli, e cerca da solo di arrivare direttamente ai fan. In questo modo fa arrivare tutta l'opera, in questo modo è quanto più diretto possibile. Quindi questa cultura da una parte ha reso l'industria molto più friabile, più fragile, più povera, ma dall'altra parte ha forse messo l'artista molto più al centro, che è quello che poi in realtà facciamo noi. Siamo una società di servizi, sì. Distribuiamo gli artisti direttamente, l'artista viene da noi, dice io non voglio più essere con una casa discografica tradizionale, con una multinazionale, viene da noi, si autoproduce l'album, se lo stampa, ce lo dà in distribuzione, ce lo affida in distribuzione sia fisica che digitale e lavora direttamente con dei propri collaboratori di fiducia alla promozione dell'album, ai tour, in realtà a 360 gradi sulla propria attività. Quindi quello che prima era tipico, peculiare della casa discografica, che con la propria struttura finanziava gli album, li metteva sul mercato, faceva il marketing, la promozione, la pubblicità, oggi non avviene più. Oggi, nella maggior parte dei casi di successo, avviene proprio perché sono gli artisti direttamente ad occuparsi. Ecco Claudio, però questo adesso va benissimo, io immagino un artista che abbia già una base economica che glielo possa permettere, ma un nuovo artista che invece di base economica non ne ha, è già tanto se riesce a fare un demo interessante e ascoltabile, cosa può fare per proporsi? Ma devo dire che oggi è stata questo tipo di cultura, è stata anche la cultura del talent show che ha creato forse gli unici investimenti che si fanno sugli artisti sconosciuti o sugli emergenti, si fanno proprio perché si pescano dai talent show. Tutto il resto è affidato alla rete, è affidato ai social, è affidato semplicemente ad un rapporto diretto che possono crearsi con la fanbase. Oggi questo già avviene per i rapper, cioè tutti i nuovi protagonisti del mondo hip hop, da Amy Skilla a Salmo a Jamie Tights, partono dalla rete. Questi ragazzi si sono autoprodotti dei video, sostanzialmente sono da soli, non hanno strutture, però riescono ad arrivare addirittura avere su YouTube qualche milione di visualizzazioni. Certo, quindi tu dici, da un certo punto di vista è più facile perché non devo essere scelto, sono io che mi propongo e se funziono, funzionerò. Invece prima c'era la major che doveva ascoltarmi, scegliermi, passava il tempo e magari ho grande talento e non riesco a comunicarlo e a dimostrarlo e quindi poi rimane tutto nel cassetto. Sei stato molto chiaro, grazie Claudio Ferrante e buona domenica. Grazie a voi. Vi ricordo il sito che è www.artistfirst.it. Allora, Giampiero, il fatto appunto di poter comunicare un po' con tutti, alla fine anche devo dire che grazie ai social network voi siete ospiti qui. Noi abbiamo cercato il vostro libro, l'abbiamo trovato, abbiamo chiamato la casa editrice, una piccola casa editrice, e non ci rispondeva nessuno. Grazie a Facebook vi abbiamo contattati, abbiamo saltato a pie pari la casa editrice e abbiamo parlato con voi direttamente. E quindi il social network ha veramente cambiato e quindi in meglio tutto? Sicuramente sì, per certi punti di vista. Ne approfitto per salutare Enzo Lerro, che è la casa editrice. Sì, non in questione, era un'accusa, cioè, verso, no, la casa, certo. Era un esempio. E in questo momento è impegnato in due fiere contemporaneamente di piccole editorie. Quindi il dono dell'ubiquità, che è dono dell'ubiquità, difficile. Ma gli impedisce di rispondere al telefono fisso, perché il terzo luogo non riesce ancora a coprirlo. Sì, i social network, io scherzando con i miei amici dico sempre che se avessimo avuto YouTube a 17 anni saremmo finiti in un carcere minorile, perché avremmo teso a riprendere e condividere le stupidaggini che facevamo. Nel bene e nel male ci mette a nudo, ci racconta fino in fondo e forse riusciamo a raccontare di noi anche la parte migliore, no? O mettiamo sui social network le cose più brutte di noi e tendiamo a mostrare il meglio. Da questo punto di vista non è poi così male voler essere ci inventiamo una parte migliore che non c'è. Oppure ci mettiamo una parte migliore che non c'è, ma prima o poi i nodi vengono al pettine. Elisabetta. Secondo me si stava meglio prima. Elisabetta è una nostalgica, non c'è niente da fare. Lei io vivrei 86 come anche la famiglia tu, canadese, sì. Sì, a farlo. Molto volentieri. Hai appena avuto una figlia, sì, di conseguenza tu non le dare il cellulare, non farle vedere il telefono solo fisso di casa e basta, insomma. Ma non sarei totalmente contraria, sì. Secondo me l'esperienza di questa famiglia canadese tende un po', non per menargramo, però a naufragare, nel senso che comunque è decontestualizzata. Sì, perché tu appena esci di casa, esatto, vai a scuola e per cui non è fattibile, però più un ritorno al futuro come Doc e McFly lo farei, tipo se tutta la società tornasse per un anno negli anni 80, ipoteticamente, sì, chiaramente sarebbe una cosa più fattibile. E non ti mancherebbe nulla di questo periodo? Dovessi risponderti di getto, direi proprio di no. Poi è chiaro che andando nello specifico ci sono state delle innovazioni che hanno portato delle migliorie, però sì, quando parlavi prima con l'ospite mi è venuto in mente quando nelle gite scolastiche un intero zaino era occupato dalle varie cassette, dal Walkman che si ascoltava insieme nel pullman durante il viaggio verso alla meta, ed era, lo ripenso con nostalgia. È chiaro che oggi con l'iPod è molto più comodo perché attacchi le casse, guarda, ce l'hanno fatto delle casse piccole molto potenti per cui tutti possono ascoltare senza neanche le cuffie. È molto più comodo, è molto più agevole e snello, però secondo me ci sono dei riti legati anche alle cose più ingombranti degli anni 80 che quelli che rimangono. Li siamo persi, sì. Il riposo del guerriero. Negli anni 80 avevo una figlia a Londra lontanissima e oggi un nipote vicinissimo, e questo è vero, le distanze non ci sono più, annullate, sì. Abbiamo costi molto bassi per i voli, è anche vero che quando una volta andavi in una città non italiana a cercare cose curiose le trovavi, oggi invece i negozi sono identici in tutto il mondo, quindi sembra di essere esattamente nello stesso posto, se non fosse per l'architettura che cambia. O comunque si può acquistare su internet oramai, è anche vero, quindi... quello. Però mi viene in mente Londra nel 1986 o 87, non ricordo l'anno, era sicuramente Paninara, erano di gran moda le calze Burlington, sì, corredo indispensabile con i loro rombi del vero look Paninara. Io avevo le cravatte Naioleari, te lo dico subito. Grandioso, marchio anche quello più che storico. Non le ho buttate. Comunque le calze Burlington che in Italia costavano mezza fortuna, a Londra le vendevano nelle stazioni della metropolitana, nei negozietti, proprio nei chioschi della stazione fatti apposta per chi passava di là e chi aveva pochi soldi. Quindi era un affare andare a Londra, rifornirsi di calze Burlington e fare lo spacciatore una volta arrivato in Italia. Però i Pet Shop Boys, quando nell'86 hanno inciso la canzone Paninaro, sono venuti a Milano a girare il videoclip della canzone, proprio ambientandolo nell'area tipica dei Paninari, per un po' ambientare, contestualizzare adeguatamente la canzone che comunque era legata a quel fenomeno. A quel fenomeno. A proposito di videoclip e canzoni. Loro sono norvegesi, gli Aha, e divennero molto famosi con questa traccia sicuramente bellissima che Take On Me, però con un videoclip molto interessante dove una ragazza che lavora in un fast food, se non mi sbaglio, si mette a leggere un fumetto. I protagonisti del fumetto sono gli Aha e lei viene catturata all'interno del fumetto e tutto vive in quel modo, come se fosse disegnato. Era una tecnica assolutamente nuova e che ha proposto qualcosa che poi è stato ripreso anche da altri e anche nel cinema. E voi ve lo ricordate bene questa traccia, anche per qualcosa di molto legato al vostro libro. Assolutamente, uno dei gruppi preferiti dell'autrice della prefazione, Chiara Poli, che salutiamo. Ciao Chiara, anche lei giornalista, esperta di serie TV, pazza per i telefilm e pazza per gli A. A 14 anni costrinse il fratello a portarla al Palatrussardi di Milano per, credo, una delle poche date italiane del tour live dell'epoca del gruppo norvegese. Quel Pala ha cambiato un sacco di nomi, ovviamente. Allora era Palatrussardi, continuo a ricordarlo come così, tale. Giustamente. Sara Sagrati, ciao, buona domenica. Buona domenica Stefano, buona domenica a tutti. Sara Sagrati, giornalista e critico cinematografico e organizzatrice anche del Maus d'Oro. Per capire, Sagra, come anche il cinema sta cambiando. Abbiamo sentito prima la musica, ormai i cantanti, i gruppi non hanno più bisogno di andare dalle major, ma si autoproducono, cominciano a farsi conoscere, creare un rapporto diretto con i propri fan e magari vendere, speriamo, i dischi. E nel cinema, Sara, cosa sta succedendo? A parte le major che continuano a produrre grandi film, ma ci sono, credo, anche altre realtà. Sì, in effetti nel cinema forse siamo ancora un po' più nostalgici, nel senso che il rapporto con la sala, come si diceva prima, il rapporto con la copertina, il rapporto tattile col disco, il rapporto con la sala è molto più difficile da staccare, proprio da tagliare, sia per il pubblico, perché il pubblico che è rimasto fortemente attaccato al cinema è un pubblico che ama troppo la sala, c'è un pubblico che poi si è ricreato negli anni, ma proprio a partire dagli anni 80 con il videoregistratore c'è stato quasi un distacco da chi ha deciso di non andare più al cinema perché i film li poteva vedere a casa, perché la televisione ne trasmetteva un po' meno, ma col videoregistratore, poi col DVD dopo, se li poteva andare a cercare, e quel pubblico fedelissimo che è rimasto attaccato alla sala e che è difficile da staccare. D'altra parte ci sono poi gli artisti, i registi, gli autori, gli sceneggiatori, per cui ancora è molto difficile pensare a un film senza immaginarlo prima in sala e poi in un altro contesto. Anche se le cose stanno cambiando, sicuramente ci sono dei segnali diversi, cioè finalmente un modo diverso di distribuire il cinema. Si parlava prima di Spotify, in America c'è uno quasi Spotify, insomma Netflix, si chiama Netflix, sì, sì. Che permette con una spesa mensile molto bassa di vedere una library di oltre 1000 film, se non addirittura di più, quando si vuole, dove si vuole, tablet, telefonini, ma che insomma per me è un orrore pensare al telefono. Infatti stavo per arrivare a quella domanda, un film pensato per il grande schermo, vederlo poi certo. Su 6 pollici, ecco, se già va bene, se sono già tanti. Fa orrore, ma è vero che c'è chi inizia a pensare a proprio dei prodotti ad hoc per sì. Schermi più piccoli. E questo è molto interessante nel cinema perché c'è proprio questo doppio rapporto filo, molto, molto legato tra quella che è la distribuzione e quello che è la produzione. Cinema, dicevate prima del bellissimo video degli A.A. che anch'io ricordo nel mio cuore, di giovani quarantenne, come qualcosa che un po' mi cambiò la vita, era un modo nuovo di fare produzione video. Proprio banalmente. Beh, che poi nel cinema abbiamo visto. Ecco, scusa, infatti, Sara, perdonami se interrompo, ma in realtà moltissimi registi di videoclip sono diventati grandi registi, poi hanno fatto grandi film, perché il videoclip ha insegnato un modo completamente nuovo di curare il montaggio. Faccio un esempio. E poi si sperimentava tanto proprio sulla tecnica, sì. Per cui appunto adesso magari sbaglio sulle date, però siamo in quegli anni di Roger Rabbit, sì. Dove si iniziava a pensare anche cosa. All'integrazione fra il cartone animato e l'attore. Esatto, e al digitale con l'analogico. Oggi c'è chi inizia a pensare a una produzione diversa proprio per media diverso. Il mio maestro di regia mi diceva che la prima cosa che deve fare un bravo regista è scegliere il formato giusto con cui raccontare una storia. Quindi la prima cosa da fare è 35 mm, se in 16 non, in 4 terzi, se usare il cinemascope o non usare il cinemascope. Oggi addirittura è proprio dove andrà distribuito questo film, per cui in sala, per cui sul telefonino, per cui sul tablet, o addirittura se è una multiprogrammazione, a quel punto devo pensare al modo migliore per far sì che il mio prodotto sia, anzi, la mia opera. Perché la domanda è sempre quella, l'opera, esatto. Se è fruita come tale, abbiamo visto che la musica forse meno. Sara, pochissimi secondi per una cosa, che cosa secondo te ci porteremo dietro, che abbiamo imparato dal passato, e che cosa invece, se c'è qualcosa, abbiamo proprio perso? Sicuramente abbiamo perso, consiglio tantissimo di andare a vedere in sala adesso, il film che strano chiamarsi Federico, per capire esattamente quello che ci siamo persi l'immaginario collettivo che nasceva dallo schermo, quello per cui il cinema era un evento enorme, proprio perché si doveva uscire, bisognava vestirsi bene, bisognava andare in sala, c'era un unico modo per informarsi sul cinema, che erano i tamburini, che era il trailer, il cinegiornale, ed era un evento per tutti. Oggi invece, con la multiprogrammazione, sicuramente abbiamo perso l'idea dell'immaginario collettivo che nasce da lì e che ci arriva anche se il film non l'abbiamo visto, per cui Fellini era Fellini per tutti, non era il Fellini. Che cosa invece porteremo nel futuro? Sicuramente porteremo una maggiore facilità nel trasportare con noi quelle immagini, per cui l'evento diventa un evento unico, non più un evento epocale, per cui nel nostro tablet, nelle nostre tasche ci saranno tutte le immagini che amiamo e ecco, che possiamo portare con noi e condividerle. Scriveva con qualcuno su internet, non trovo, ecco qua, Raf di Roma, viva l'MP3, col mio lettore riesco a portarmi in giro 30 giga di musica, ma te lo immagini andare in giro con 200 album in macchina, è vero, però è qui la quantità, ma la qualità. Grazie Sara Sagrati, ciao, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Ogni tanto si sente, ma come facevamo senza cellulare? Come se fosse indispensabile alla vita come l'aria, scrive qualcuno. O ancora, il vinile è tornato, rifanno gli album. Sì, è vero, negli Stati Uniti quest'anno la percentuale, non la quantità, ma la percentuale di vendita del vinile ha superato quella dei CD di incremento, per cui c'è un interesse, perché le nuove generazioni, i nativi digitali, dicono: se dobbiamo avere una canzone per forza, il file MP3 va benissimo, però se dobbiamo avere la qualità e tutto il resto, vogliamo il vinile, non il CD, che sarebbe un passaggio, no? Perché anche il CD è digitale, per cui... Se ripenso 30 anni fa, era la stessa cosa. Io ero ovviamente un vinilologo. Avevi il cilindro di cera. Non esageriamo. No. Avevo i vinili, ma i vinili venivano... Erano la festa di quando risparmiavi abbastanza pochetta per comprare Bruce Springsteen. Registravi poi su cassetta e no, il vinile non lo toccavi più. Ma soprattutto su cassetta si registrava facendo i pirati anti-litteram, usando le radio private dell'epoca, con il tasto rec e il tasto play schiacciato insieme al tasto pause, aspettavi la tua canzone, mollavi il tasto pause e la memorizzavi sulla tua cassettina. Allora, da 90. Siccome, ahimè, io ho 30 anni di più di 30 anni di radio alle spalle, apposta per quel problema inserivamo all'interno i jingle durante la canzone per evitare il problema, perché tu non sai quanto ti odiavamo. Lo dovevamo far per forza, no? Perché c'era quella problematica lì della registrazione, perché poi qualcuno vendeva gli album e le compilation tratte però registrate tutte dalle radio, per cui per questo motivo si inserivano i jingle all'improvviso. Parlando di cinema invece, Elisabetta, io sono particolarmente affezionata ad una, per me, perla cinematografica degli anni 80, dell'82 precisamente, che è Viene avanti cretino, che era una specie di antologia di sketch dell'avanspettacolo. La regia era di Luciano Salce. Roberto Scaltritti, che in regia sta facendo Evviva, ma lui è quasi un nativo digitale. Voi sapete che eravamo partiti da Fellini e stiamo passando precipitosamente a Viene avanti cretino. Dove c'era appunto la storia di questo goffo Pasquale Baudaffi, che alias Lino Banfi, che insomma ha una serie di traversie inenarrabili. Secondo me ci sono delle parti che, non so, ad esempio la sua performance come cameriere con il rude titolare Salvatore Gargiulo, piuttosto che quando gli sono state date delle mansioni alienanti nell'azienda elettronica diretta dal dottor Thomas, sono rimaste. Lì arriviamo dall'avanspettacolo, spettacolo, no? Con lo stesso Viene avanti cretino. È la battuta dei fratelli De Rege. Ecco, per cui invece il tuo film, perché il film, intanto il cinema è andato avanti, ha fatto anche altre cose, Elisabetta, non so se ti sei fermata all'89. Però vorrei dire una cosa a sostegno degli anni 80, che per quanto riguarda la televisione, moltissime serie TV, da Dallas per citarne una, hanno cercato di fare un sequel o comunque riproporle, e risulta che quello prodotto negli anni 80 comunque è stato migliore, perché ha avuto un grande seguito, mentre quello realizzato a distanza di 30 anni non ha avuto lo stesso successo, non ha bissato. Secondo me perché è tutto molto più frammentato, cioè non ci sono più, ci sono molto più reti televisive, c'è internet, per cui anche la visione è completamente frammentata, quindi non si possono fare quei numeri. Difficile, poi la nostalgia premia se fai rivedere quello che era allora, forse non voglio vedere il film remake di Hazard, voglio rivedermi il telefilm con Daisy Duke. Tu dici, finale o niente. Bo Luke e la macchina che c'era, che aveva le portiere sigillate, si passava solo dai finestrini. Una cosa non ha avuto successo invece, l'integrazione, si è tentato di integrare le serie televisive con la rete in questo modo, chiedendo ai telespettatori come avrebbero fatto continuare la storia. Non ha avuto un grande successo, le persone ancora lì non vogliono essere guidate da una storia e non sceglierla invece. Ecco. E poi anche vedrei una difficoltà, qui siamo in tre, probabilmente avremmo tre idee diverse su come continuare la serie. Poi la maggioranza vince come in democrazia. Ma se io sono in minoranza mi intristisco un po' nel vedere che è stata scelta un'altra strada. È vero, quindi è meglio che scelga qualcun altro. Sì, sì. Pia Capelli, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, ciao agli ascoltatori. Allora, giornalista di arte contemporanea, Pia, è anche l'arte. Allora, abbiamo intanto detto se la musica ormai è arte come una volta, perché forse le cose sono un po' cambiate. Ma le altre arti invece, quindi la pittura, la scultura, l'arte digitale, perché con l'avvento di internet, ma non soltanto, anche la tecnologia ha aiutato anche a costruire un'arte che adesso si chiama arte digitale. Sì, direi che con l'avvento del digitale quasi tutto di quello che noi intendiamo con arte è cambiato o ha dovuto avere a che fare con il cambiamento, per cui è cambiato il modo di fare arte, come dicevi tu, sia le arti tradizionali che quelle invece proprio nuove generate dal digitale, è cambiato il modo di guardare l'arte e di raccontarla, è cambiato molto, e io che sono un entusiasta dell'era digitale vedo un cambiamento interessante, secondo me questo è un momento fantastico per occuparsi di arte e di tutto quello che ha a che fare con l'immagine, perché l'avvento del digitale non ha cambiato soltanto le arti, poi adesso se volete vediamo come le ha cambiate, ma soprattutto a mio avviso ha cambiato proprio in senso filosofico l'impatto che le immagini hanno su di noi, sulla nostra visione del mondo, e quindi in un certo senso, senza voler rubare il mestiere agli scienziati, ha cambiato anche, sta cambiando i nostri processi cognitivi, quindi sta cambiando il modo in cui funziona il nostro cervello, il nostro modo di guardare, di usare gli occhi, perciò non cambia solo l'arte, cambia anche l'uomo in relazione con l'arte. Per quanto riguarda le arti, diciamo, di una volta, che ci sono ancora e sanno benissimo, la pittura, la scultura, il disegno, hanno naturalmente dovuto confrontarsi con il cambiamento delle tecnologie intorno a loro, anche se sono cioè la scelta di rimanere a lavorare con materiali e abilità tecniche che non hanno a che fare con la tecnologia. Poi ci sono invece le arti, per così dire, tecnologiche, dalla fotografia al video, che si sono invece trovate nel mezzo di un'enorme rivoluzione, no? Quindi hanno dovuto passare dall'analogico al digitale e hanno visto chiudersi delle potenzialità pazzesche. Ecco. E infine, come dicevi tu, c'è proprio l'arte digitale. Che cos'è l'arte digitale? È tutto, per arte digitale intendiamo una serie di pratiche e di opere che usano la tecnologia digitale come una parte essenziale o del processo creativo o della presentazione al pubblico. Diciamo che il termine che si usa oggi è new media art, cioè l'arte è fatta con i new media, con i nuovi media, e che ingloba tutte quelle definizioni che si sono susseguite dagli anni 80 di computer art, internet art, multimedia art. Tutto questo oggi lo chiamiamo semplicemente new media art, che è un termine molto ampio. Direi che ci sono tanti piccoli segnali anche quotidiani del fatto che siamo in una nuova epoca. Io poi vi racconto sempre i fatti miei, ma per dire, qualche mese fa sono tornata a casa e nella pila di posta che ho trovato ad aspettarmi, che trovo perché sono molto fortunata tutte le sere, cataloghi, CD-ROM, eccetera, eccetera, ho trovato un bellissimo libro su una mostra di Monet che si terrà a Verona a fine di ottobre. Quando l'ho aperto ho visto delle immagini. Ma non era un libro, era un piccolo schermo LCD, il primo videocatalogo della mia vita e anche della vita di molti altri che l'hanno ricevuto. Quindi quello che ho visto io era una cosa un po' alla Harry Potter, le immagini davanti a me si animavano e invece di vedere le opere d'arte raffigurate su carta, stampate su carta, mi sono abitata una serie di video su un piccolo schermo con una piccola memoria e un processore, chiuso sembrava un libro, aperto era un nuovo mondo. Ecco, anche perché la tecnologia, i costi cominciano ad abbassarsi e quindi certo. Alla fine la produzione anche costa meno, perché una volta sarebbe stato impensabile. Pensa a un tubo catodico invece che ti arrivava direttamente in casella. Senti, per chiudere, Pia, l'attività manuale, capirci, quindi la capacità ancora di usare le, diciamo, le mani per capirci, ha ancora importanza come una volta, come prima dell'epoca digitale, o no, può anche non esserci oggi nell'arte? Beh, dipende da quale, di quale arte stiamo parlando, naturalmente, sì. Perché ci sono degli artisti che consapevolmente scelgono di continuare a lavorare. Ecco, e invece ci sono arti che invece non la contemplano, quindi. Ci sono arti come la digital art, che sono delle arti che contemplano diverse altre skills, che richiedono più che altro nel cervello, nella capacità di sognare delle opere che sono per lo più immateriali, cioè non esistono, non hanno una presenza fisica nel mondo, anche le immagini che noi vediamo non vengono da qualcosa che è presente fisicamente nel mondo, ma vivono su un supporto digitale e sono fatte di pixel, sono fatte di algoritmi, sono fatte di codici matematici, e nonostante ciò ci danno emozione, ecco, beh, chiaro, perché poi alla fine lì bisogna arrivare. L'ultima cosa, come ultimissima cosa, vi posso dire che si sta realizzando un sogno, che è quello di digitalizzare tutti i musei del mondo e quindi le opere d'arte capitali della nostra storia, perché Google, come ha fatto Street View, sta facendo un progetto che si chiama The Art Project, che trovate online, e ci sono già 40.000 capolavori online che potete vedere, per cui io in questi ultimi giorni, proprio per prepararmi a questa chiacchierata con voi, sono stata agli Uffizi, sono stata alla Tate Britain, sono stata vis-à-vis con Francis Bacon, l'ho guardato negli occhi da vicinissimo, senza muovermi dalla mia scrivania, guardando le opere d'arte con una definizione e un rapporto personale, quindi molto intenso, che in era pre-digitale non avrei potuto, certo, nemmeno immaginare. Quindi guarda, ama l'arte. È vero, Pia, è vero che Elisabetta De Biasio ti sta guardando malissimo, perché dice, ma insomma, guardare queste opere su un monitor, però è stato dimostrato. Sai che sul monitor io ho visto opere che avevo già visto anche di persona, in un modo diverso. Io non sto dicendo di non andare più di... No, è chiaro, infatti arrivavo lì. Ho guardato uno a uno i capelli della Venere di Botticelli, ho visto la craquelure, che sono quelle crettature, quelle piccole crepe che si formano nel pigmento attraverso, sì, i secoli, come qualsiasi restauratore del mondo sogna di poterlo vedere, ma non tutti hanno l'accesso. Quindi diciamo che è un'arma in più, questo ecco, che staremo tutti chiusi in casa. No, ma infatti è stato dimostrato che i musei online portano le persone ad andarli a vedere dal vivo, per cui in realtà serve proprio a portare persone, perché la gente poi vuole toccare, è uno stimolo importante. Grazie, perché Pia Capelli. Le immagini fanno fame. grazie, ciao, perché Pia andrebbe avanti all'infinito, giustamente, e io lo ascolterei anche all'infinito. Allora, Giampiero, Elisabetta, abbiamo pochi minuti prima delle previsioni del tempo. Voglio capire da voi, insomma, che cosa avete portato dal vostro passato, presente e futuro dalla vostra vita, insomma, cosa avete tratto, cosa vi manca, ma cosa invece, grazie al cielo, avete. Beh, è tutto dentro di noi, in un certo senso. Ci siamo cresciuti, ci siamo abbeverati, non avrei mai pensato, facendo i compiti di matematica davanti a Candy piuttosto che a Goldrake, che un giorno nella vita avrei scritto di Goldrake e Candy e non mi sarei più ricordato come si fa un'espressione con le parentesi graffe. È davvero tutto dentro di noi, siamo cresciuti con quello, fa parte del nostro bagaglio, fa parte della nostra nostalgia, è bello ricordarlo, e in un certo senso è bello anche cercare di capire che cosa abbiamo imparato, come siamo, perché siamo così, essendo nati e cresciuti in quella decade. Cos'è la cosa più bella che dal passato ti sei portato e porterai? Ricordi, Elisabetta, i tuoi non film? Mi mancherà la moda. Sì? Perché le spalline imbottite, no, piuttosto che la moda di avere i jeans ad altezza, sì, acqua in casa per far vedere appunto le Burlington sotto, non mi mancherà. Mi mancano di più quei quiz che come i quiz di Mike del giovedì sera o il pranzo servito di... Ma ci sono i pacchi adesso, scusami. Io preferisco quei quiz trasversali che coinvolgevano un po' tutte le fasce di pubblico e che erano un appuntamento un po' immancabile, no? Cioè c'era Corrado quando arrivavi a casa da scuola, appunto Mike il giovedì sera con, apro una parentesi musicale, alcune sigle delle trasmissioni di Mike Buongiorno erano delle canzoni che poi sono diventate famosissime, come L'amico è, piuttosto che Questione di feeling di Mina. Senti, tu hai una figlia che, sì, ha pochissimi mesi. Tre mesi. È una nativa digitale. Sì. Cos'è che non le farai assolutamente mancare degli anni Ottanta? Secondo me è giusto conoscere un po' tutto, quindi sicuramente, poi avendo scritto la mamma un libro sugli anni 80, sicuramente deve conoscere un po' tutto, ma deve vivere nel suo tempo, quindi è giusto che sia tecnologica. Hai una figlia di 8 anni, nativa digitale anche lei. Beh, Vanessa mi insegna dei trucchi sul tablet, sa usare il computer, sa usare dei programmi di video disegno come io non so ancora fare. Sono ammirato da questo e penso che tutto sommato anch'io nel mio piccolo, quando registravo con le cassettine, in un certo senso ero un artigiano della tecnologia come lei adesso. Faceva la stessa cosa, beh, esatto. Chiaro, andiamo semplicemente avanti, giustamente. Grazie Gian Piero Canneddu, Elisabetta De Biasio, vi ricordo, correva l'anno del Gire, l'antologia semiseria degli anni 80, Linea d'aria edizioni, è un libro molto divertente per chi ha vissuto quegli anni ma anche per chi non li ha mai visti. Ma continuiamo a parlare di ieri, oggi e domani con gli altri nostri ospiti dopo le previsioni del tempo. Il riposo del guerriero. Senti chi parla. Noi italiani parliamo sempre peggio, non lo so, lo chiediamo a Francesca Dragotto. Ciao, buongiorno. Buongiorno, che nostalgia. È un po' che non ci sentiamo, hai ragione, beh non tanto, insomma una puntata soltanto è saltata, quella di settimana scorsa, ma nostalgia, ho già capito che l'hai detto perché vuoi partire da lì. Certo, perché visto che il tema di oggi è ieri, oggi e domani, mi sembrava che nostalgia ci permettesse di spiegare al meglio quali sono le dinamiche che permettono alle parole di adattarsi ai nuovi contesti, quindi di continuare a vivere e di passare da ieri a oggi, da oggi a domani, riadattandosi a quelle che sono le esigenze di coloro che le usano. Il caso di nostalgia esemplifica bene questo stato di cose, perché la parola viene coniata più o meno intorno, la parola è di matrice greca e significa dolore per il ritorno, viene utilizzata per indicare lo stato d'animo dei soldati svizzeri durante appunto un periodo di permanenza all'estero, viene appunto utilizzata in questo senso da uno studente svizzero, e da allora il significato prevalente diventerà questo, quindi si perderà completamente il riferimento all'idea del ritorno, che invece era proprio caratteristico del suo etimo. Ecco, quindi si cambiano le cose a un certo punto, come per esempio casino, che oggi significa confusione, un caos, ma che invece pare non sia partito da lì. Assolutamente no, se avessimo chiesto il significato di casino a persone vissute poco più di un secolo prima di noi avremmo avuto risposte completamente differenti. Infatti l'idea di caos, altra parola su cui dovremmo soffermarci in questa prospettiva, è un'idea moderna, risale ai primi del Novecento. Prima di allora la parola ha vissuto una lunghissima trafila, una trafila che poi non si è limitata al solo italiano. Perché? Perché la parola nasce come un diminutivo di casa, in particolar modo per indicare una casa di piccole dimensioni, che veniva utilizzata in principio come stazione durante la caccia, poi come luogo nel quale ci si riuniva per giocare, per conversare, e da qui la recupera il francese, che poi ce l'ha restituita con l'accento casino proprio in riferimento alla pratica del gioco delle carte. Parallelamente l'italiano poi l'aveva asservita al riferimento al postribolo. Sì, sempre di casina si tratta. Insomma. Ecco, sì. Se tu dicessi sei scema, quanto io ti posso offendere? Nel senso di oggi o nel senso di ieri? Perché nel senso di ieri non potrei minimamente offendermi, perché dietro c'è la parola che indica una cosa a metà, ma questo è un fatto, è un tratto comune a molti dei termini che utilizziamo per offendere. Dietro a cretino c'è la parola per cristiano e così via, insomma. È proprio una caratteristica della lingua, riadattarsi, rimodellarsi per poter continuare ad essere utile a che cosa? Alla comunicazione, che è poi la ragione per cui abbiamo sviluppato tutto questo sistema complessissimo. Ecco, l'ultima domanda che ti faccio è questa: se tu digiti una domanda su Google, spesso se la scrivi in modo sbagliato ti corregge automaticamente il computer, anzi Google in particolare, ti dice forse stavi cercando quest'altra cosa, e spesso ha ragione. Sta di fatto che se tu fai una domanda impostata così, qual è la differenza fra, e poi scrivi qualunque cosa, scrivendo qual è correttamente, ovvero qual è senza l'apostrofo, Google invece invece ti corregge, ma nel modo sbagliato. Vuol dire che sono più le persone che scrivono in modo scorretto che quelle che lo scrivono in modo corretto. Perché? Perché in questo caso il dato della frequenza d'uso fa sì che si venga a ritenere come forma di riferimento quella che invece è scorretta. Il dato interessante è che se invece digitiamo la forma in maniera assoluta, quindi isolata, non all'interno di una domanda, la correzione non viene applicata. Quindi, ecco, quindi questo vuol dire che chi pone le domande su internet spesso sbaglia, sì, a farlo. Molto, ecco, probabilmente sì. Va bene, quindi cosa succederà? Che potremo scrivere qual è con l'apostrofo come corretto a questo punto? Perché la frequenza d'uso è maggiore? Possiamo quotare, fare delle scommesse e quotare le diverse ipotesi. Del resto un caso di studio molto interessante ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi, ne abbiamo parlato, ed è il famoso piuttosto che utilizzato in senso disgiuntivo, quindi piuttosto che per o. Anche chi sostiene di non usarlo, purtroppo a forza di sentirlo, a forza di acclimatarsi al suo uso, si sta in qualche modo rassegnando, benché involontariamente. Questo naturalmente non vale per tutti, però vale per molti. E questo valere per molti da qui a qualche anno potrebbe, quindi nel futuro, forse potrebbe esserci un piuttosto che... alla lombarda, diciamo così, e quindi io sarò salvato da questo, visto che è un errore nel quale da lombardo casco spesso. Grazie Francesca Dragotto, buona domenica. Buona domenica. Giochi e videogiochi. Se ti piace l'azione, volare in caduta libera, sgommare, fare inseguimenti, combattere, sparare rotoli, costruire, saltare, spaventare, giocare con i tuoi amici, gareggiare, sollevare pesi, cavalcare maiali, lanciarti e schiantarti al suolo! Ma con stile, preparati per un gioco che ti sorprenderà! Così esagerato da uscire dal tuo schermo! Quello che avete sentito è il trailer di presentazione di Disney Infinity, che è un gioco che è uscito da pochissimo, disponibile per tutte le console, e che sta cercando di unire davvero quello che erano due mondi completamente diversi. Emilio Cozzi, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica a te e agli ascoltatori. Sì, quello che dici è assolutamente vero, è una strategia che inventò un gioco intitolato Skylander del 2011, pubblicato da Activision, che, come dire, da allora ha tentato di fondere quello che era, se vuoi, la brama collezionistica per l'oggetto, per il giocattolo fisico, rappresentato poi, come dire, nel mondo sintetico, come se prendesse vita. C'era questa base, il portale del potere, soprannominato, sulla quale tu mettevi le tue riproduzioni dei personaggi, e i tuoi personaggi diventavano in quel momento parte del gioco, diventavano interattivi. Disney Infinity questa strategia, appunto questa tattica, la migliora, la porta all'ennesima potenza, intanto perché si avvale di un parco, come dire, personaggi che non ha pari. Spiro potrà pure impensierire dello Ranger, ma ha qualche difficoltà a farlo col Topolino e con Mr. Incredible. Sicuramente. Questo quindi è una risorsa che Disney francamente sfrutta e sfrutterà a pieno. Pensa solo alle proprietà intellettuali di Disney che vanno da Marvel a Guerre Stellari, quindi immagina che un monopolio del nostro immaginario collettivo occidentale sia tutto lì e tutto rappresentabile nel gioco, cosa che infatti Disney ha detto che farà a breve, inserendo delle espansioni di gioco che andranno da Toy Story a appunto i Pirati dei Caraibi, al mondo di Jack Skeleton, per cui parliamo di Tim Burton, di Harry Selick, insomma una risorsa incredibile. In più, aggiungendoci anche un'altra furberia, permettimi di chiamarla così, quando con dei pacchetti di figurine, chiamiamoli così, con i power disc, cioè con dei dischetti che inseriti sotto i personaggi danno loro dei poteri aggiuntivi, come dire, a quel punto lì abbraccerà anche la smania di quelli che come me collezionavano le figurine. Eh sì, perché non le attaccheremo più sugli album, ma in realtà le metteremo fisicamente, che sono figurine di plastica, le metteremo, esatto, fisicamente sotto il piedistallo del personaggio che fisicamente, quindi è reale, in plastica è vero, lo si vede, lo porremo su questa piattaforma e automaticamente lo rivedremo in modo digitale sul televisore, quindi ci potremo giocare. Ecco. Con tutte le sue caratteristiche. grafiche, esatto, per cui non so, i personaggi di Monsters Inc. fanno spavento agli avversari, i personaggi di Cars diventano delle automobiline, quindi un racing game nel gioco, addirittura c'è la possibilità, e questo è clamoroso, di modulare come in Lego, come le piste polistil, il mondo di gioco. Cioè non ti piace quello che vedi, il livello che vedi, puoi rifartelo completamente, addirittura uploadarlo online e far giocare i tuoi amici. Sinceramente è una strategia ludica, come dire, onnicomprensiva e, se permetti, anche pericolosa, perché chiaramente qualsiasi cosa tu faccia, qualsiasi personaggio tu compri, appunto, è a pagamento. Per questo quindi funziona un po' meno per gli acquirenti e per di più chi ha, diciamo, inventato tutto questo. Senti, allora, questa integrazione come la vedi, sì, tu, Emilio? Ci sarà sempre di più alla fine nel mondo reale col virtuale, cioè internet e la rete entreranno sempre di più nel mondo del videogioco? Sì, questo discorso è talmente vero che addirittura mi verrebbe non tanto di parlare di futuro, ma di presente. Sì. Io credo che in questo momento, come dire, lo stato dell'arte sia identificato in due giochi, appunto Disney Infinity da una parte e, per esempio, GTA 5, che uscirà proprio nei prossimi giorni, un gioco che promette di vendere oltre 100 milioni di copie. Stiamo parlando di una cosa che il miglior film dell'anno non raggiunge come incassi. Ecco, questi due giochi in qualche modo sono lo stato dell'arte adesso, cioè blockbuster giganteschi, multimilionari, che integrano qualsiasi tipo di aggeggio, qualsiasi tipo di immaginario tu possa immaginare, perdonate il gioco di parole, all'interno del proprio mondo di gioco. Quindi massima libertà di movimenti, storie che possono essere seguite, possono non essere seguite, e qualsiasi tipo di, per esempio addirittura c'è una parodia di Facebook, dei social network, all'interno del mondo di GTA. E quindi insomma, questa cosa è estremamente curiosa per chi si interessi del presente e del futuro videoludico. Detto questo, il prossimo passo anzitutto arriverà, secondo me, dagli indipendenti, perché porteranno dei giochi su tematiche prima, come dire, invisibili, prima non toccate, proprio perché i videogiochi costano talmente tanto che è bene per chi li produce, come dire, fossilizzarli su argomenti che vanno, il salvate la principessa, il distruggete l'astronave, eccetera eccetera eccetera. Dall'altro, questo darà la possibilità di fare dei giochi che costano molto poco, addirittura dei giochi privati, quindi io farò il mio gioco con degli accessori, dei tool digitali, che magari non contemplino nemmeno il fatto che io sappia programmare, questa è una cosa eccezionale, e potrò fare un mio gioco a misura per te e mandartelo per posta. Giocherai solo tu perché il gioco sarà personalizzato su di te. Questo credo sia la parte, come dire, del futuro più interessante. A questo aggiungici anche tutti gli aggeggi portatili, indossabili, che entreranno ben presto nella nostra vita. Nomino gli occhiali, i famosi occhiali di Google, giusto per fare un esempio, ma potremmo farne veramente tantissimi. Ecco, questo di sicuro è il futuro. Ecco, ne parleremo sicuramente. Qualche volta devo dire che mi piacerebbe rimanere ancorato al passato. Ciao Emilio. Assolutamente. Ciao e buona domenica a tutti. Il riposo del guerriero. Le suggestioni del gastronauta. Avevamo una cucina diversa da nazione a nazione e si mangiava la frutta di stagione, mica le arance in agosto. Questo è uno dei tanti messaggi che sono arrivati sulla puntata di oggi, ieri, oggi e domani. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Purtroppo questa è una realtà data dalla globalizzazione. Io credo che non si possa fermare questo fenomeno, perché c'è libertà di commercio, libertà di mercato. È evidente che anch'io non sono molto d'accordo su questo, però purtroppo credo che noi tutti possiamo fare ben poco a questo fenomeno, che ormai è un fenomeno globale. Il tuo purtroppo quindi ci ha fatto anche capire il tuo pensiero. Allora, Davide, quali sono le tue suggestioni di questa settimana? Le mie suggestioni sono innanzitutto per un carpaccio celtico di Chianina, e non c'è niente di politico su questo celtico, è semplicemente una vecchia ricetta trovata da Marco D'Oggiono, prosciutti di Oggiono, ed è veramente un carpaccio, devo dire, delicatissimo, fatto con una carne chianina, leggerissimamente affumicato, e poi ha una concia molto particolare. Devo dire che è un prodotto davvero che si mangia al volo, e si può mangiare in tante maniere, con un po' di olio sopra, si può mangiare con il grana, si può mangiare con una riduzione di balsamico, insomma diventa un piatto completo, ed è un grandissimo prodotto. Ma sempre Marco D'Oggiono produce anche una bresaola di chianina, e anche questa, cioè, diciamo, già la carne di chianina è una carne di per sé molto magra, molto delicata, e quindi anche questa bresaola, diciamo, che viene fuori in maniera chiara, e può essere anche questo un piatto. Devo dire che sono pochi salumi che diventano piatto, perché si possono aggiungere tantissime cose, anche questa bresaola si può veramente utilizzare come un piatto mettendoci dell'olio, mettendoci chi vuole, ma io non sono molto d'accordo, c'è anche chi mette olio e limone, io non amo molto il limone nella carne, né sul pesce né su altra cosa, quindi sicuramente non sono, come posso dire, una bibbia su questo. Quindi questi due prodotti sono di questa piccolissima azienda di Marco Oggiono, che è proprio a Oggiono, questa è la cosa divertente, quindi diciamo vicini al lago, insomma siamo vicini a un'area brianzola interessante anche dal punto di vista paesaggistico. Poi una suggestione che mi viene al volo di un qualcosa che ho assaggiato un'ora fa in un bar milanese che sta diventando un punto di riferimento, forse qualcosa più di un bar pasticceria dove si fa colazione, si chiama Pavè. Bene, devo dire che difficilmente si trova un buon cappuccino con un croissant fatto come Dio comanda, in questo posto che è tra l'altro molto carino, molto divertente, molto giovanile e fatto anche con pochi soldi, si vede, però la qualità dei prodotti è davvero eccellente, buona direi, quindi la mia ricerca dei cappuccini che continua ogni giorno in giro anche per l'Italia, con scarsi risultati perché di cappuccini buoni e di croissant o brioche buone se ne trovano veramente poche, stavolta ha fatto 100, lo ripeto, Pavè, un bar pasticceria di Milano. E l'ultima suggestione, andiamo in Piemonte, andiamo a 10 km da Alba, ancora non è tempo di tartufo, però credo che questo ristorante, che è anche un resort tra l'altro molto bello, in una posizione un po' fuori diciamo da dove ci sono i vigneti, qui ci sono i mandorleti, ho detto veramente una grossa idiozia, i noccioleti, ci sono i noccioleti ed è un paesaggio molto particolare, a me piace molto perché non è quello tipico delle langhe, si discosta pur essendo in alta langa, ed è si chiama Villa d'Amelia, appunto dicevo è a pochi chilometri salendo verso Cortemiglia, e qui c'è uno chef, Damiano Nigro, che è di origine pugliese ma ormai devo dire che è un langarolo d'adozione. Allora cito solamente due piatti, un risotto mantecato con ricotta di bufala e limone, con ristretto di peperoni e acciughe, e devo dire che questo piatto è veramente caleidoscopico perché viene presentato con una serie di colori incredibili, perché ogni prodotto è messo diciamo sopra quando si serve questo risotto ed è molto molto colorato, mi ha richiamato il caleidoscopio. E poi un secondo piatto con merluzzo arrosto con la sua brandade, una galletta di ceci e un pomodoro confit. Ce ne sono tantissimi altri piatti, però io ho assaggiato questi due, cito questi due perché veramente erano di buon livello. Lo ripeto, Villa d'Amelia. Chiudo, non ho altre suggestioni, magari le lascio per la prossima settimana. Certo. E auguro a tutti una buona domenica. Grazie Davide, mi piace il tuo tuffo nel passato con il caleidoscopio. Te lo aggiungo anche purtroppo, che credo che più andremo avanti e più la globalizzazione imperverserà, perché ormai tutto il mondo fa hamburger, quindi più globalizzazione di questa non ce n'è. Dai grandi ristoranti stellati fino diciamo al carrettino di strada, ormai tutti sono sull'hamburger, e invece noi in Italia potremmo benissimo fare la carne macinata, la tagliata, battuta a coltello, no, tutti ormai fanno l'hamburger, questo dà già la dimensione, poi mangiamo fragole tutto l'anno, questo è un altro punto. Appunto, come si diceva con le arance, è d'agosto. Grazie Davide. Ciao, c'è Sandra scrive, ma perché tornare agli anni 80? Erano orrendi, piuttosto gli anni 70. Sì, Sandra, ma perché siamo partiti da quella storia della famiglia canadese che ha deciso di tornare all'86, semplicemente per capire com'era la vita prima di internet e dopo invece, oggi e fino al futuro. Stiamo per chiudere con qualcosa che ha a che fare ancora con la cucina. Cine gustologia. L'abbiamo citato prima il film e Marco Lombardi ce ne parla, il nostro cinegustologo. Ciao Marco. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Ve ne parlo da un luogo eccezionale perché mi trovo in mezzo alle vigne sotto il Vesuvio, sto facendo una vendemmia, quindi sono veramente a contatto con i prodotti, in questo caso Eno e non gastronomici. Che uva stai raccogliendo? Allora, la falanghina, quindi se l'anno prossimo, lo sapete tutti, ci sarà un crollo qualitativo della produzione falanghina. Ecco, me l'hai raccolta tu, vabbè, ok Marco. Ecco. Allora, hai solo un minuto e mezzo di tempo, quindi velocemente il film e poi la tua associazione. Allora, il film, che strano chiamarsi Federico, Ettore Scola, da 10 anni che non faceva cinema, è stato presentato come una specie di documentario, perché racconta tutti gli incroci che ci sono stati tra Ettore Scola e Federico Fellini all'inizio delle rispettive carriere, anche se l'età anagrafica non era la stessa. Scola addirittura iniziò a scrivere per il Marco Aurelio, scrivere e fare il vignettista, esattamente come faceva prima Fellini, ed è un racconto però fatto, non documentaristica, ma recitata con degli attori, paradossalmente più realistico e verosimile di tanti film invece che si dichiarano essere documentari. Il piatto a me fa pensare ai carciofi e alla giudia, piatto romano di tradizione ebraica, cucina ebraica comunque ha delle radici profondissime nel nostro paese. Perché il carciofo alla giudia? Innanzitutto lì ci vuole il carciofo romano, che è un carciofo senza spine, ha una particolare morbidezza. Questo carciofo, che viene immerso due volte in due momenti diversi nell'acqua, acquisisce una croccantezza incredibile, e questa croccantezza è comunque l'ironia che c'è nel film di Scola, nella raccontare comunque il proprio passato incrociato a quello di Federico Fellini. Però il carciofo ha a livello di consistenza una grande filacciosità, e qui nel film si sente che il ricordo del passato è un ricordo elegico, triste, di qualche cosa che ahimè non torna più, quindi di qualcosa che non si scioglie, che non si risolve. Però tutto sommato il ricordo è così bello, è così piacevole, che quando arrivi poi al cuore della storia, al cuore del carciofo, lì c'è la parte morbida, anche la parte un po' dolce, e quindi ti puoi godere tutto quanto questo racconto del grande cinema italiano di molti anni fa. Grazie Marco Lombardi, hai unito perfettamente il passato, il presente e il futuro con le tue idee. Ci sentiamo domenica prossima, ciao, grazie. Ciao. Giorgio De Luca in redazione, in assistenza, e Roberto Scaltritti in regia. Grazie a tutti voi per aver seguito il Riposo del Guerriero, continuate a restare su Radio 24, ci sentiamo domenica prossima puntuali alle 10, buona settimana.